Cari amiche e cari amici, bentrovati, bentrovate, buonasera, Mariddia ai microfoni, è martedì sera, quindi sono veramente felice di essere qui con voi. Felice per tante ragioni, perché vedrete che la puntata di questa sera è particolarmente ricca. Abbiamo due ospiti di notevole spessore, quindi questo non fa che ovviamente renderci felici. Saluto Dani M in regia. Buonasera a tutti. E i nostri Giorgetto e Fiordaliso stanno per arrivare, quindi insomma iniziamo la serata senza di loro. C'era un amico che oggi mi diceva: ma secondo te siamo a maggio o a ottobre? Ah, secondo me siamo addirittura a novembre. Ma io veramente sfido un attimo a riconoscere quelle che sono le temperature di questi giorni. Insomma, ho ripreso il cappotto, ho ripreso veramente indumenti che pensavo non dover più usare, almeno per quest'anno. Invece pare che, insomma, l'inverno qui non voglia proprio finire. Mardì, se non fosse per il calendario, il numero 5 di maggio, no? Insomma, si potrebbe benissimo confondere con l'11 di novembre. Novembre forse no, però sicuro è un ottimo mese di ottobre che si sta traslando su questo mese di maggio. Volevo, prima di iniziare la trasmissione, congratularmi finalmente per la pubblicazione in lingua francese di un libro a noi molto caro, non fosse altro perché ne abbiamo curato la prefazione, che è il libro di Liliano Golini, che in francese si chiamerà semplicemente Delle Marionette, Des Marionettes. Domani sul nostro blog, per quanti volessero saperne di più, ci sarà qualche informazione, e tra l'altro il libro sarà presentato il prossimo 26 maggio a Firenze. Il libro è stato pubblicato da The Book Edition, è un'iniziativa abbastanza lodevole, perché permette proprio a tanti autori di avere una vetrina, e quanti desiderano poi acquistare una copia del libro possono farlo online, e quindi possono ricevere sia la copia in versione elettronica, quindi con un PDF, oppure addirittura la copia cartacea. Noi abbiamo già provato ed effettivamente il risultato è straordinario. Quindi congratulazioni a Liliana. Vi ricordo thebookedition.com, vi basterà inserire The Marionette, semplicemente il titolo, oppure il nome dell'autore, che è in questo caso Liliana Ugolini, e potrete poter rivivere le emozioni di queste marionette anche in lingua francese. Dani M. Sì, svegliamo un paio di curiosità per gli nostri ascoltatori. Il libro è in italiano, è in francese, ci sono delle immagini. Allora, hai ragione Daniele, ma hai ragione, sono stata un po' troppo rapida nel dare questa notizia. Allora, il libro è ovviamente in francese, seguito da immagini che sono state realizzate da Giovanna Ugolini, che è stata anche nostro ospite qualche tempo fa bussellando, e poi segue alla fine del libro proprio la versione originale in italiano. Quindi entrambe le due versioni sono disponibili. Tra l'altro metterò a disposizione sul sito del blog la prefazione del libro, in quanto ne sono stata autrice. Mi fa proprio piacere condividere con voi questa stupenda notizia, perché finalmente ieri il libro è stato pubblicato, quindi quale miglior momento se non di parlarne anche a Bruxellando, che ci ha permesso proprio di incontrare la scrittura e i personaggi di Liliana Ugolini. Prima di passare agli ospiti, sono due e veramente faccio difficoltà a scegliere tra i due, ci hanno regalato entrambi emozioni straordinarie. L'uno domenica in musica contemporanea, ma che fa riferimento alla classicità, quella greca, oppure a tempi più moderni, che comunque ci ricordano Melville e la sua Balena Bianca. L'altro invece si è appena concluso, eravamo proprio lì qualche minuto fa e abbiamo dovuto ahimè lasciare la seconda parte, quella probabilmente che piace più ai tanti, cioè quella proprio del cocktail, però non potevamo, dato il nostro impegno qui a Bruxellando. Però insomma, il concerto al quale abbiamo assistito stasera è stato veramente una perla rara. Insomma, abbiamo potuto ascoltare brani di musica medievale, non solo straordinari. Tra l'altro Bruxellando aveva già introdotto anche il tema della musica medievale qualche mese fa, e ne approfitto anche per salutare il nostro amico Francesco. Il primo ospite di cui vi parlavo è stato per me una sorpresa. Riconosco che di lui sapevo ben poco, ne avevo sempre sentito parlare in toni egregi e positivi, sapevo che era una delle rivelazioni più importanti della musica italiana, però non ne avevo mai avuto possibilità di di poterlo testare realmente. Invece ho avuto modo di intervistarlo e di vederlo anche in concerto proprio domenica. Mi riferisco a Vinicio Capossela, a cui vanno i miei migliori auguri, perché devo dire che mi ha emozionato le canzoni, le 19 canzoni che ha proposto del suo ultimo album sono veramente straordinarie, e devo dire che a volte probabilmente non è nemmeno facile seguirli, proprio perché i riferimenti culturali sono così elevati che potrebbe risultare semplice smarrirsi. Eppure c'è la musica di Vinicio che ci ha praticamente condotti in questa serata, che è stata davvero lunga, più di 2 ore. Noi, io e Dani M, avevamo avuto modo di poterlo incontrare nel primo pomeriggio, quindi vi lascio veramente alle parole di Vinicio, buon ascolto. Amiche, cari amici, Radio Alma Brussellando, Maridì, questa sera ha il piacere di intervistare Vinicio Capossela in concerto al Teatro San Michel ad Etterbeck. Vinicio, benvenuto, e siamo veramente felici di averti qui con noi questa sera. Ho letto molto su questo tuo ultimo album, Marinai, Profeti e Balene, e sarei proprio curiosa se tu potessi raccontare il viaggio che c'è dietro questo album. Beh, Marinai, Profeti e Balene è un disco che parte dal, insomma, è un disco che viene dalla letteratura di mare, che riguarda il fato e il destino, principalmente da, è un disco doppio e si compone di una parte, diciamo, più mediterraneo, ancestrale, omerica, diciamo, che fa capo più ai miti che fanno parte del Mediterraneo, e una parte più oceanico, biblica, che è presa un po' da Melville, Conrad, questi autori più della cultura anglosassone. In entrambi i casi sono testi che si rifanno al mito e quindi alle storie esemplari che l'uomo si è dato per spiegare le cose che non sa spiegarsi. Dunque sono vicende piene di simboli e di metafore che, seppure non riguardano un'attualità congenita come questa, in realtà la comprendono, perché sono metafore, insomma, che fanno capo al mito, e quindi che non hanno un tempo preciso, comprendono anche quello attuale. Marinai, quindi, profeti e balene, ci puoi attribuire un significato veloce a ciascuna di queste tre diverse categorie? Sono tre categorie che si occupano dello sconosciuto, cioè di qualcosa che non è segnato bene sulla carta. Il marinai sono coloro che prendono il viaggio, dunque che prendono il largo, e il marinaio si trova, almeno così era nella letteratura di un tempo, è l'esemplificazione perfetta della condizione dell'uomo nel suo viaggio, diciamo, nella vita. Il profeta è quello che deve indagare, che indaga le cose che non si possono spiegare, è qualcuno che cerca di interpretare segni, che ha una sua conoscenza delle cose, non necessariamente prevede una cosa, ma semplicemente è fuori dal contesto quotidiano della vita degli uomini e ha delle visioni. La balena invece è quello, è l'animale mitologico per eccellenza, l'animale biblico, il Leviatano. Le balene normalmente proprio portano dietro di sé storie, esattamente come i piccoli pesciolini che gli stanno a fare da, come si dice, che si nutrono di quello che c'ha sulla pelle. Quindi richiama a sé piccole creature e moltissime storie, e molte sono le storie che l'uomo si è dato per questo enorme, diciamo, parente della nostra specie. Come tu dicevi, sono due dischi che compongono questo album. Un primo, diciamo, come dicevi tu, oceanico, e l'altro invece un po' più legato alla tradizione omerica. A me ovviamente sono piaciuti entrambi, però mi ha colpito in particolare la canzone dedicata a Penelope. Che cosa vuol dire per Vinicio l'attesa? Che cos'è esattamente attendere? L'attesa è un ricettacolo proprio di visioni, di proiezioni di se stessi verso qualcosa. Innanzitutto è qualcosa che impedisce al presente di essere vissuto pienamente, perché pone in una condizione appunto di provvisorietà l'attesa, e quindi è una condizione per certi versi paralizzante, perché impedisce un pieno svolgimento del presente, lo proietta sempre su un qualcosa di futuro, sostanzialmente qualcosa che proietta ed è piena di simulacri l'attesa, vuol dire ci sono immagini che si sostituiscono quasi alla vera realtà delle cose, per cui questa canzone sull'attesa è proprio sugli inganni dell'attesa, sul fatto che per esempio attendendo, come nel caso insomma dell'attesa forse più celebre del mondo occidentale, che non si finisca, come posso dire, per innamorarsi della propria attesa e non in realtà di chi. È molto interessante per esempio come Omero con quale proprio spessore psicologico fa avvenire questo riconoscimento per niente banale. Ci impiega veramente forse due libri dell'Odissea per questo riconoscimento progressivo e recupero del ricostituzione del mondo, no? Che avviene soltanto attraverso questo segno del letto, il letto che è stato ricavato nel legno di un olivo che era piantato. Questo è il segno proprio del riconoscimento tra i due, perché è molto ben espressa questi inganni dell'attesa, il fatto che poi non si riconosca in realtà chi si è atteso tanto. Assolutamente, questa poi è anche la dinamica stessa di Penelope. E c'è anche un'altra canzone che davvero mi è piaciuta tanto, che è dedicata all'Ade, che poi vuol dire anche cantare. E che cos'è per te oggi, sia la canzone sia la musica, per te che sei un polistrumentista? No, io non sono un polistrumentista, compongo le mie canzoni usando un magnetofono, che è uno strumento di registrazione, e spesso così con l'ausilio del pianoforte, quindi registro delle idee o semplicemente cantandole oppure accompagnandomi. Suono non benissimo il pianoforte e un po' con la chitarra, quindi non ho una grande, però mi piace molto ordire degli organici interessanti, quindi organizzare diciamo gruppi musicali e scegliere gli strumenti, scegliere i musicisti che li suonano, perché credo che nel timbro, il timbro sia il colore della musica, gli strumenti sono la cosa che lo danno, quindi facciamo molto lavoro sulla scelta proprio dei timbri da usare per le canzoni. Quindi la musica sostanzialmente racchiude un po' il segreto emotivo, emozionale che c'è dietro una storia. La musica parla sempre più all'emozione che non alla ragione, no? Le parole invece cercano di dare degli elementi alla nostra coscienza, ancora più che alla nostra intelligenza, per evocare una storia. E la domanda era? Che cos'è per te oggi la musica? Ah, questo è quello che ho cercato di dire, è la sede, diciamo, delle emozioni. C'è sempre, ed è come tutte le cose inutili, c'è qualcosa di divino nella musica, così come nell'uomo quando si occupa di cose inutili, cioè di cose che non servono sostanzialmente al meccanismo del lavoro, alla sopravvivenza e tutto quanto. E la musica senz'altro è una di queste, cioè un modo di ricongiungersi al tempo del sacro in un certo senso, cioè il tempo sottratto al tempo dell'utile. Ma ti ringrazio, è veramente una definizione bellissima. E ho anche ancora un'altra curiosità: tu hai girato questo tuo disco ad Ischia, anch'io sono di origine campana, emigrata qui in Belgio già da tanti anni. Come mai hai deciso proprio di andare ad Ischia? Questo è un disco di navigazione, dunque non ci sembrava giusto registrarlo nel chiuso di uno studio di registrazione, come che ne so, in una città, e quindi sono stati anche, quando ci si mette in viaggio cercando le storie, anche i luoghi si fanno trovare. Ero capitato al, non solo a Ischia, ma soprattutto al Castello Aragonese di Ischia, che è una piccola isola, un promontorio collegato soltanto da un ponte al resto dell'isola. Lì sopra c'è un castello, il Castello Aragonese, che è la sede di un'importante corte rinascimentale nel 500. Adesso lì sopra c'è questa cattedrale dell'Assunta, che è stata danneggiata, manca del tetto, così, ma è un posto estremamente suggestivo, perché è a picco sul mare ho sperimentato, quando ci sono capitato per un'altra occasione, proprio questa sensazione dell'isolamento da altezza. Noi ci isoliamo, che ne so, staccando il telefono oppure facendo dei recinti, ma il vero isolamento che consente davvero di essere, porre una distanza concreta tra sé e la contingenza, insomma, è proprio quello dall'altezza. Quindi mettersi a 70-80 metri, ogni volta dover fare tutte queste scale, arrivare là sopra e stare, questo dà veramente una condizione, insomma, di isolamento. E lì abbiamo registrato tutta la parte del piano, della voce, per essere, insomma, un po' davvero un po' più a tiro delle cose che stavamo cercando di evocare. Del resto quello è il mare del mito, il mito, insomma, ambienta lì diversi episodi omerici, ed è un posto davvero specialissimo. Se mai vi capita, c'è un bellissimo monastero, è un posto dove si può anche soggiornare, si chiama così, appunto, il monastero, ed è un posto straordinario. Tra l'altro c'è anche una canzone nel tuo album proprio che è dedicata, magari, se ricordo bene il titolo, La Madonna Restituta o Restituita, qualcosa del genere. L'ho chiamata La Madonna delle Conchiglie perché una volta avevo visto, spesso ci sono nei posti di mare queste, come si chiamano, queste pertinenze, queste madonnine con, ne avevo visto una volta una che aveva tutto questa cornice di conchiglie, e naturalmente era a protezione di quanti prendevano il mare. È anche vero che chi perde la vita in mare non ha una tomba, no, come gli altri, quindi ci sono molte, appunto, queste processioni sul mare, tutto quanto, che hanno questo genere anche di patronati, di santi che fanno. E però nello specifico mi hanno raccontato un po' la storia di questa restituta, che si fa questa grossa festa, la patrona di Ischia, e non so se ho capito bene sul fatto che fosse arrivata dal mare, che fosse una Madonna nera, quindi che avesse un colore della pelle diversa, forse ho sbagliato, però mi piaceva l'idea che fosse arrivata da un altro proprio, da altra gente, da un altro popolo, che avesse una pelle diversa, ma che però fosse accomunata dallo stesso desiderio di costruire con le proprie mani una specie di simulacro di feticcio, insomma, su cui proiettare le proprie speranze, le proprie preghiere, e che, insomma, che questo genere di feticcio è comunque una statua fatta dalle mani di qualcuno, che ti guarda muto e senza parole, e non è che ci può fare molto, ecco, certo. Riguardo a tutte le... Assolutamente. C'è un aneddoto, c'è un episodio che ricordi con piacere durante la preparazione proprio del disco? Io lo chiamo ancora disco, so che magari un termine è un po' anacronistico, però insomma... No, sono successe molte cose, ma sicuramente una delle cose più straordinarie è stata andare a registrare a Creta con uno straordinario musicista, nella terra del mito, con veramente un personaggio mitologico, perché è un grande musicista, forse il più insomma, famoso di questa musica cretese, che è una musica molto ancestrale. Creta e le sue usanze mi ricordano anche un po' la Sardegna, che secondo me è un'altra grande terra intatta dal punto di vista dell'ancestralità. E questo artista si chiama Psaradonis, e tutto il modo con cui siamo arrivati a coronare questo desiderio, insomma, perché è una specie di divinità, sembra Zeus, scrive delle canzoni. C'è una sua canzone che dice: Zeus era un pastore, stava nella via di fianco a casa mia. Dunque, arrivare insomma a tiro di Zeus è stato molto impegnativo, però è stato molto emozionante. Alla fine Zeus si è espresso dicendo: non parla inglese, non parla solo greco, e allora io una volta, dopo 2 o 3 giorni, c'è la sua la moglie di suo figlio, che è australiana, dunque parlava inglese, e allora gli ho detto questo rammarico, ho detto però Psaradonis, mi dispiace che non parlavo greco, non ci siamo potuti dire niente. E allora lei mi ha detto: ah, ma lui, anche se parlassi greco, non avrebbe detto niente lo stesso, lui tace in tutte le lingue. Bellissimo. E Vinicio, che cosa bolle in pentola, che cosa possiamo raccontare ai nostri amici all'ascolto? Beh, so che avete 4 lingue, una di queste è il greco. Io ho dedicato questo disco, che sta per uscire, al rebetico, che è questa musica straordinaria, che è nata in Grecia negli anni 20, dopo la migrazione forzata dei greci dell'Asia Minore. È una musica straordinaria che nasce così una di quelle musiche di bassi fondi, come posso dire, che però dà proprio un senso di identità, che è più che una musica, è un modo di vivere. E in questo momento così difficile per un paese che amo molto come la Grecia, pubblichiamo questo disco che si chiama Rebetico Gymnastas, che significa i ginnasti del rebetico. L'abbiamo registrato ad Atene qualche anno fa insieme a dei musicisti di rebetico, Manolis Papos, Keti Deli e altri, e mi piace che in un momento come questo, insomma, fare ricordare per quello che c'è possibile, che la Grecia non è soltanto questa, qui nella sede della capitale, tra l'altro, della Banca Europea, ricordare che la Grecia è soprattutto una nazione di uomini. Siamo in chiusura perché, ahimè, il tempo è davvero tiranno. Un messaggio invece per i nostri amici ascoltatori? Salute, è un paese dove ci sono una varietà di birre straordinarie, dunque salute a tutti. Vinicio, noi ti ringraziamo e ti auguriamo uno splendido concerto questa sera. Ed eccoci nuovamente qui, speriamo insomma che... Giorgetto, ben arrivato. Grazie, adesso cerco di parlare un po' come Vinicio con la voce. Lo so che sei geloso, No, lo so che sei geloso, lo so. Una voce calda. Ha una voce calda, potente. Ha un qualcosa di potente nella voce. Bello, sì, bello. Infatti è una voce bassa. Io devo chiedere quante sigarette si fuma al giorno per avere questa voce. Non lo so. Poi è un arretrato grandioso. Io ho un pacchetto e mezzo. Io non lo so. Tu un pacchetto e mezzo? E per avere questa voce, sì. Infatti, quando ce l'ho un po' più alta è perché fumo. Perché fumi di meno? Sì. Ecco, hai capito? Radio Alma vuole dire ai propri ascoltatori di non seguire l'esempio di Giorgio Ramos. Bene, Daniele, mia regia, come al solito, deve sempre esprimere eccola. La sua invece, idea, insomma, così, vabbè. Bisogna pagare, non esiste nessun pasto è gratuito, diceva il mio professore di economia. Oh, cavolo, d'ora in poi ti faccio pagare. Hai capito, sì, piano piano saltano anche gli altarini. Allora, no, quindi... è un bellissimo Vinicio Capossela, cioè è un'intervista bellissima. Complimenti a Mary D, complimenti a DM che era lì, è un'intervista bellissima, lui sentiva che era a suo agio, parlava di tutto, sì, si sente proprio da lontano un miglio che è a suo agio. Forse perché l'ho sorpresa all'inizio, ero in tuta, dovevo andare a giocare dopo, quindi sono arrivata in maniera molto sportiva. Anche lui era molto easy going, meno male, non aveva capito, buon Vinicio Capossela, che grazie al blog di Radio Alma, che è... radioalma.eu/Bruxellando, e ricordiamo che la frequenza di Radio Alma su Bruxelles è 101.9 FM. Bravo, non AM FM. Non ha capito che sul blog andrà questa sua intervista e rimarrà nei secoli. L'abbiamo detto, lo sa. Ne era cosciente. Grazie Vinicio per questa bellissima lezione anche di storia greca e anche sul rebetico, io non lo conoscevo. Nemmeno io, infatti ora ci andremo ad informare. Ne approfitto anche per ricordarvi che il prossimo 27 maggio invece sarà qui a Bruxelles Daniele Silvestri. Io di Daniele conosco poco, quindi sarà veramente anche un'occasione per rivedere alcune delle mie concezioni musicali. Ma chi è quello che accompagna Giacomo La Riccia, il notissimo Giacomo La Riccia? Sì, più o meno. Dilla come vuoi, insomma, vedi un po' che è una questione di prospettive, però no, è personale. Però insomma, la notizia l'abbiamo detta, insomma, lavorano insieme, cioè saranno insieme al concerto. Esatto, Giacomo La Riccia, 27 maggio. E già Daniele Silvestri, il mitico Daniele Silvestri. E Radio Alma offre due biglietti ai nostri ascoltatori, quindi uppala, ci fosse qualcuno all'ascolto. E vogliamo ricordare i recapiti? Assolutamente, 02345-2656, ripeto, 02345-2656. Sbrigatevi se no telefono io. Tanto non vale. Mancano 32 minuti. Come non vale? Bene, allora, la seconda intervista invece di questa sera è stata realizzata questo pomeriggio. Io ero particolarmente emozionata perché ho intervistato tutti, praticamente tutta una serie di categorie di personaggi, registi, cantanti, attori, però non avevo ancora intervistato un direttore di banca, quindi era un po', non dico in imbarazzo, ma tutto sommato sapevo di trovarmi di fronte una personalità con un certo spessore. Nel ruolo di mecenate. Nel ruolo di mecenate, ovviamente, perché questo è il ruolo che lui ha svolto per un evento che ha appena avuto luogo. Parlo di Fabio Giannotti, direttore generale della Monte dei Paschi in Belgio, promotore di un'iniziativa lodevole che ha avuto luogo all'Église Notre-Dame del Sablon. È stato praticamente ospite un coro sardo, veramente bravo, che ha praticamente ci ha allietato con dei canti gregoriani e non solo, veramente straordinari. Noi abbiamo incontrato il dottor Giannotti qualche ora prima del concerto e quindi ecco l'intervista che abbiamo realizzato. Buon ascolto! Cari amiche e cari amici, buonasera, bentrovati, Mari D ai microfoni, e la quale, come potrete già ascoltare dalla voce, è molto emozionata perché ha il piacere di intervistare il direttore generale della Monte dei Paschi in Belgio, il dottor Fabio Giannotti. Direttore, io sono prima di tutto veramente lieta del fatto che abbia trovato un momento per noi e sarei un po' curiosa, sa, questo è un po' l'indole di noi giornalisti, al di là dell'immagine di manager che sicuramente lei ha, ci può raccontare qualcosa di sé, qualcosa magari di poco noto? La vita di un bancario solitamente è molto, molto banale. Per quello che mi riguarda, sono entrato in banca nel 74, volevo fare il medico, quella era la mia passione originaria, poi per varie vicende della vita, come dice, mi sembra un famoso cantante, sei entrato in banca pure tu, no? era il periodo, e diciamo ho cercato di farmelo piacere, ci ho trovato tanti spunti vitali in questo lavoro che apparentemente è arido, perché dà la possibilità, una volta lo disse a una delle mie bambine, come se avessimo la bacchetta magica, la possibilità di realizzare i desideri delle persone, ovviamente con senso di responsabilità, perché amministriamo soldi che non sono nostri e quindi qualche volta tocca dire anche di no, ma l'importante è riuscire a dirlo nel modo giusto, spiegando le motivazioni, avendo sempre una grande umiltà nel nostro lavoro. Quindi questo, ecco, penso sia il tratto essenziale. Penso poi di interpretare il nostro lavoro cercando per quanto è possibile di avere un bel rapporto con i miei collaboratori, divertendoci, facendo veramente squadra. Quindi l'ambizione è quella di essere un po' il Patch Adams del sistema bancario. Insomma, l'assonanza mi sembra essere veramente appropriata. Veniamo un po' alle attività, sono tante le attività di questa banca che è veramente nel cuore dell'Europa, perché oggi mi trovo proprio nel cuore del quartiere europeo. Dicevamo quindi aperitivi, concerti, concorsi, conferenze, insomma sono tante le attività anche di beneficenza che voi svolgete regolarmente. Come nasce questo interesse così vivo per l'arte e la cultura? L'abbiamo un po' nel DNA nel Monte dei Paschi, perché siamo una banca da sempre estremamente legata appunto all'arte, alla cultura, alla filantropia in genere. Poi ecco, ho pensato che fosse in qualche modo necessario qui cercare di differenziarci, avendo un rapporto se possibile diretto e amichevole e conviviale con i nostri clienti. Le banche oggi godono di una pessima reputazione, in qualche modo, a parer mio, perfino esagerata rispetto ai loro demeriti, e quindi credo che sia opportuno cercare di fare qualcosa per far capire che cerchiamo di intermediare quelli che sono i bisogni degli uni, che devono investire, rispetto ai bisogni degli altri, che devono risparmiare, devono essere tutelati nel loro risparmio. Ecco, Mark Twain diceva che la banca è l'invenzione più importante dopo la scoperta del fuoco, l'invenzione della ruota. Forse è un po' esagerata, ma svolge veramente un ruolo fondamentale per l'economia, e quindi cerchiamo di rendere tutto questo nella maniera più conviviale possibile. Bene, mi sembra veramente un'ottima filosofia. Tra l'altro siamo a Bruxelles, capitale non solo dell'Unione Europea, ma anche crocevia di lingue, culture e popoli. Secondo quanto lei ci ha già esposto finora, quanto la nostra cultura italiana riesce ancora ad affascinare gli stranieri e direi anche gli italiani che vivono in questa città? Molto, molto, perché il Belgio, a differenza di altri paesi che ho avuto modo di vivere anche 3 anni in Francia, ci dà veramente molto affetto. Può darsi che dipenda dalla storia dei nostri minatori, dal contributo che abbiamo dato alla costruzione di questo paese, dal fatto che c'è un premier di origine italiana, che la regina ha origini italiane. Fatto sì è che tutto quello che è italiano, dalla gastronomia alla cultura al latte, trova un grande apprezzamento, e da parte mia c'è una grande riconoscenza verso questi belgi, che sono estremamente carini. Diciamo che il 50% della nostra clientela è belga o di altre origini, insomma soltanto il 50% abbiamo italiani, e questo per noi è particolarmente motivo di orgoglio, perché significa che riusciamo a competere molto bene anche con le più forti banche di sistema. Ovviamente da italiana non posso essere che felice di questa realtà. Direttore, come sa, Bruxellando, il nostro programma si occupa di agenda culturale. Siamo anche abbastanza pignoli quando selezioniamo i nostri eventi, quindi la domanda potrebbe anche risultare di interesse. Quali sono i criteri? Come li scegliete, li selezionate invece i vostri eventi? Beh, cerchiamo di fare tutto quello che in qualche modo è diverso, non banale, è un po' pretenzioso questo, ma insomma in qualche caso li promuoviamo. In altre circostanze ci sono invece delle proposte che arrivano, che nascono dalle disponibilità. Recentemente abbiamo avuto un bellissimo concerto con la signora Zanicchi, che aveva raccolto più di 12.500 euro di beneficenza, e abbiamo messo insieme la disponibilità della signora Zanicchi, della signora Gardini, del Teatro Saint-Michel. Ecco, trovo che possiamo fare veramente da fulcro rispetto alle tante buone volontà che ci sono in circolazione. Sono molto fiducioso. Ecco, si tratta a volte di dare le nostre disponibilità iniziali, e poi intorno a quelle si scoprono tante altre che arrivano. Questo sì, è vero, possiamo confermarlo anche noi di Bruxellando, che poi Bruxelles è una città particolarmente vivace, quindi abbiamo la fortuna di vivere anche in un ambiente che è particolarmente stimolante. E tra l'altro ho notato con estremo piacere che dedicate spazio a concorsi aperti ai più giovani. In genere, qual è la loro reazione? Beh, vanno un po' stimolati, per la verità, perché spesso ricevono tante sollecitazioni dall'ambiente esterno. Però ecco, siamo arrivati già alla terza edizione del concorso De Sbione d'Oro, che ha questo nome davvero singolare, che serve un pochino a smitizzare l'importanza e la susseguiosità di tanti concorsi, che vede la partecipazione di ragazzi fino ai 25, 26, 26 anni, alle loro prime esperienze, quindi fa veramente piacere. Speriamo che nel futuro magari ci possa essere qualche artista che si affermerà grazie anche al nostro contributo. In ogni caso, ecco, ci piace creare la tradizione. E mi sembra essere proprio un'ottima tradizione. E questa sera in particolare, ed ecco uno dei motivi per i quali siamo anche qui, presso la chiesa Notre-Dame del Sablon, avrete il piacere di ospitare il coro polifonico Santi Cosme e Damiano, direttamente da Suni, in Sardegna. Come nasce l'incontro col maestro Damiano Delogu? L'incontro nasce in virtù del forte interessamento del mio amico Giovanni Butarelli, che è garante della privacy presso la Commissione, unitamente all'onorevole Pittella. Conoscevano questo coro e Giovanni mi ha parlato di loro come persone che, pur non avendo professionalità specifiche, perché ognuno di loro svolge un'attività professionale propria, riescono veramente ad emozionare. Quindi stasera avremo modo di sentirli con un pubblico e un parterre veramente di tutto riguardo, perché gli inviti sono stati promossi unitamente a Monsignor Berlocco, quindi penso che avremo la possibilità di ospitare tutto il corpo diplomatico di Bruxelles. Sarà un bel evento. Bene, mi sembra essere anche un ottimo motivo per quanti fossero in ascolto e per quanti ovviamente potessero partecipare. Mi tolgo una curiosità, e che cosa l'ha colpita in particolare di questo coro? C'è un elemento, una qualità, un qualcosa che li distingue? Sì, appunto il fatto che credo si siano messi insieme per motivi di carattere etico. Nei paesi molto spesso è difficile riuscire a contrastare le antiche rivalità, le difficoltà, e quindi credo che sia una scommessa per riaffermare i vecchi valori. Si sono uniti in base a questo, e quindi mi sembrava particolarmente importante offrire loro un palcoscenico di rilievo. Oggi credo si sono esibiti al Parlamento europeo, stamani e stasera sono offerti alla città di Bruxelles, al Sablon. Bene, mi sembra essere d'altronde un ottimo elemento, dato che la Sardegna, un po' anche come Bruxelles, come annunciavamo prima, è sempre stato un ponte che è stato in grado di unire le sponde del Mediterraneo. Tra l'altro ho notato che il programma è veramente molto ricco: canti gregoriani, musiche di Bach, Stravinsky, Allori, nonché musiche della migliore tradizione sarda. Ha potuto in qualche modo suggerire oppure scegliere alcuni dei brani che saranno eseguiti questa sera? Beh, innanzitutto ho suggerito di fare dei brani che fossero in qualche modo collegati con l'ambientazione sacra. La chiesa del Sablon è sicuramente una delle più belle e suggestive, un esempio veramente importante di arte gotica, e quindi da questo non potevamo assolutamente prescindere. E però mi piaceva anche che si portasse un momento di colore e di folklore. Credo che gli uomini e le donne del coro saranno in qualche modo in grado di suggestionarci, almeno questo è stato quello che mi è stato affermato con certezza assoluta dal mio amico Giovanni. E noi siamo tutti curiosi, tra l'altro Brussellando cercherà di essere assolutamente presente. Siamo ormai a maggio, speriamo che l'estate arrivi anche in questa città. Potrebbe magari anticiparci alcune delle prossime attività? Volentieri, dunque penso che saremo in grado di fare una serata, in qualche modo ci piacerebbe usufruire della bellezza della Cambra la sera, quindi abbiamo pensato a una serata che abbiamo intitolato un po' pomposamente Sogno di una notte di mezza estate, quindi assolutamente sì. E poi sono in corso di preparazione almeno due conferenze, una dedicata al mondo della donna, in cui abbiamo invitato a partecipare dei personaggi davvero importanti, spero che diano la loro conferma, dovrebbero fare da scenario rispetto all'ambientazione delle vignette di Lorenzo Calza, che è un vignettista davvero simpatico, propone sempre uno stereotipo di donna con mille difficoltà e mille problemi, perché riuscire a realizzare tutti i compiti che ha la donna. Io sono padre di tre ragazze, quindi sto sicuramente dalla loro parte, è molto difficile, e quindi abbiamo pensato a personaggi che possono parlarci della loro esperienza umana, della difficoltà. Sono persone che si sono affermate veramente in maniera importante nei loro campi, che sono assolutamente diverse, ma parlando da un'angolazione assolutamente particolare, le difficoltà e quello che fanno per l'universo donna. Queste sono le iniziative più significative, ma credo che avremo un'estate e un autunno comunque molto intense. E infine vorrebbe indirizzare invece un saluto ai nostri amici all'ascolto. Con grande piacere. Io so che gli ascoltatori di Radio Almas rappresentano una comunità variegata, perché da una parte abbiamo gli espatriati, quelli che si trovano qui da qualche anno e per qualche anno, e dall'altra parte abbiamo quelli che invece rappresentano magari la seconda o la terza generazione e tengono comunque a mantenere un contatto molto saldo con le loro origini e le loro radici. A loro va veramente un grande saluto e l'impegno è di cercare di essere sempre più vicini a quelli che sono i loro bisogni. Direi che noi abbiamo come banca tutta una serie di prodotti che possono soddisfare le più varie esigenze e mettiamo nel nostro modo di essere l'impegno e la fantasia, cercando di essere più italiani possibile da questo punto di vista, ma anche un impegno, direi, e un rigore nord-europeo, se mi è consentito. Credo che questa, la capacità di coniugare queste particolarità possa metterci in condizione di competere veramente bene con tutti. Quindi grazie a tutti e veniteci a trovare. Assolutamente, tra l'altro vorrei ricordare che il primo giovedì del mese la banca organizza un aperitivo che è proprio un momento anche di costruzione di questa comunità, la comunità italiana in Belgio, che è davvero rappresentata egregiamente. Martedì ringrazio tutti voi all'ascolto, ringrazio ovviamente il direttore che è stato gentilissimo e che ci ha concesso un po' del suo tempo e auguro ovviamente un grossissimo in bocca al lupo per l'ottima riuscita dell'evento. Buonasera a tutti. Ed eccoci nuovamente qui, insomma stasera arriviamo un po' di rendita, devo dire la verità. Beh, ogni tanto ci vuole. Ogni tanto fa degli investimenti, spera di avere degli interessi che gli produca qualcosa e eccola. Sì, rendita. Mezz'ora di riposo, così mi riascolto mentre. Molto bene, che effetto ti fa riascoltarti? È un effetto strano. Ecco, per tutti. Questo dipende dal fatto che noi abbiamo. Quello che sentiamo in realtà non è quello che sentono gli altri, perché noi abbiamo la cassa di risonanza. Cioè, le nostre orecchie sentono anche quello che rimbomba all'interno della nostra bocca, della nostra gola. E quindi la voce che noi percepiamo di noi stessi è la stessa voce quando l'ascoltiamo registrata. Infatti, è vero. Ma non è soltanto la voce, sono tante cose, insomma, un giorno magari ve ne parlerò. Non voglio rubare altro tempo, perché ogni promessa è un debito, quindi lascio la parola alla nostra Fiordaliso. Sì. Balenanti marinai, pirati schi di libri e di angoli. Libroboli. Grazie. Stasera, come promesso, noi parleremo della fondazione di Asimov. Anche parle tronco, parletroncheremo. Bellissimo. Parletroncheremo della fondazione di Asimov, che Asimov è nato, non è stato fondato. Cioè la fondazione di Asimov. Guarda, non sapremo mai se lui è un robot o è un umano. Però qui ti volevo. Ecco, quindi sicuramente ve ne ho già accennato tempo fa, però quello che ultimamente ho riletto la serie, perché è bellissimo dimenticare i dettagli, poi riscoprirli in questa serie di libri che sono proprio una potenziale e credibile futuro, diciamo, fra 20.000 anni dell'umanità. Quindi mi ha fatto tanto piacere rileggerlo, ma mentre lo rileggo sempre realizzo che Asimov fondamentalmente è da un lato uno scienziato, e questo si sente, perché riesce a creare anche dal punto di vista scientifico delle realtà che noi sentiamo, cioè uno intuisce che potrebbe anche succedere, cioè non sarebbe una cosa assolutamente irragionevole se succedesse. Poi, che fondamentalmente è anche un filosofo, se possiamo dirlo così, uno che capisce certe realtà universali della nostra storia, del nostro modo di comportare, del nostro di noi come umani, e riesce a tradurli in storie in modo da far pensare su noi stessi attraverso queste storie. E infatti la scienza che lui inventa per questa serie di libri che si chiama La Psicostoria è esattamente un po' questa intuizione, cioè il fatto di poter predire quello che masse di persone faranno nel futuro come reazione a certe influenze che vengono, diciamo, da fuori. E lui inventa questo scienziato che si chiama Harry Seldon e che nel momento della massima fioritura apparente di un grande impero galattico umano riesce a vedere, a predire in base matematica e psicologica, quindi psicostorica, la caduta di questo impero e 30.000 anni di buio, di medioevo galattico, se possiamo dirlo così, finché la cosa si ricostruirà. E quindi quello che fa Harry Seldon è un piano per accorciare questo periodo a un brevissimo 1000 anni rispetto al 30.000 anni che noi, secondo me, non riusciamo nemmeno a concepire nella sua profondità. E questa è l'altra cosa, la profondità del tempo e come la storia evolve. Al momento dell'inizio della fondazione noi siamo almeno a 20.000 anni di storia umana, quindi si perdono nella notte dei tempi delle concretezze di cui noi adesso siamo sicuri, che proprio noi pensiamo che dureranno in eterno. Rembrandt durerà in eterno, Bruges durerà in eterno, cioè abbiamo dei patrimoni che secondo me noi dentro noi stessi siamo un po' convinti che sono il nostro patrimonio e che sopravviverà per sempre, ma non è detto. È quello che ci fa realizzare Asimov, che attraverso le bufere del tempo vanno perdute delle cose che dopo diventano magari dei miti, delle storie, e che non riusciamo veramente a recuperare. E sicuramente anche noi attraverso guerre, attraverso tante, per esempio la biblioteca di Alessandria che è andata perduta, cioè, non riusciremo mai a recuperare quei pensieri che sono stati nella biblioteca di Alessandria. Riusciremo a recuperare altre cose, cioè abbiamo recuperato le cose che esistono e che hanno sopravvissuto e di conseguenza di cui sappiamo, e di conseguenza vediamo Vinicio Capossela che canta di Ulisse. Però diciamo, se fosse anche quello stato distrutto dalle fiamme, ora non avremmo Ulisse, cioè non è che è una cosa certissima. Non è che una cosa su cui noi possiamo appoggiarci per la notte dei tempi. Dimmi. Faccio una piccolissima digressione, perché è vero, Ulisse, perché Ulisse arriva fino a noi? Perché il non vedente, in realtà, cioè, Omero, è quello che sembra... Ah, pensavo a Polifemo. No, Omè Oron, colui che non vede. No, volevo fare la battuta su Polifemo. Traendo ispirazione dal concerto Ciclope, eccetera. Allora, Omeron sembra che abbia semplicemente riportato, non si sa nemmeno se sia esistito veramente, ma che comunque è il passaggio dalla tradizione orale che conviveva ancora in Africa ai tempi di questo sottoscritto libro Radici, per esempio, la tradizione orale e la tradizione scritta. E questo mi fa venire, arriva fino ad oggi, in cui già ci sono persone che sperimentano oggi la perdita della conoscenza grazie alla mancanza della capacità di lettura. Mi riferisco a quei poveracci che ancora hanno, per esempio, dei floppy disk. Se voi avete un floppy disk da 3,5, vorrei trovare un computer che riesce a leggere un floppy disk. Quindi voi avete la vostra conoscenza, un libro, un qualcosa di scritto all'interno di un dischetto, ma non c'è più niente che riesca a leggerlo, perché ormai è stato sorpassato. Quindi il problema della scrittura, quello che tu dicevi, è ancora più vero, perché si può perdere, sì, è vero, un patrimonio magari distrutto dalla bufera del tempo, ma si può distruggere qualcosa. Siamo oggi in presenza di una distruzione adesso immediata, invisibile, sì, della scrittura. L'abbiamo già visto oggi, qualcosa che è stato scritto su un supporto che non è più leggibile, ed è un grossissimo problema con la lettura degli archivi. E questo era tra l'altro uno dei problemi che abbiamo affrontato anche durante la fiera del libro. Insomma, ci eravamo un po' interrogati anche sul futuro del libro, e probabilmente questo benedetto futuro perderà parte del suo passato, un po' perché, come diceva Giorgetto poc'anzi, c'è questo dilemma della tecnologia, la tecnologia che va così veloce da non riuscire più a conservare le sue edizioni precedenti, floppy disk o tante altre cose. Magari gli stessi compact disc di cui parlavamo prima, microfoni spenti, saranno ben presto superati. Quindi che cosa ci resta? Come tutelare queste fonti? Ma ridici, ritornare alla pietra? Incidere tutto in pietra? Con l'avvento dei vari portali elettronici di acquisto della musica, i CD non si stanno più vendendo nei negozi, non solo i negozi che vendevano CD sono chiusi, ma tra poco non si produrranno nemmeno più CD perché costerà talmente tanto produrli per delle vendite veramente esigue e quindi si passerà a qualcos'altro. Sì, ma il sapere non può essere ricondotto a qualcosa di invisibile, come diceva Fiordaliso prima. Perché questo è il problema. Anzi. Succederà. Comunque, fine della digressione, molto interessante d'altronde, e comunque con la coscienza del fatto che c'è un sacco di gente che cerca di salvare quello che è sparito, diciamo. Cioè, io penso sempre a quelli che volontariamente spendono delle ore a scansionare dei libri, a correggerli, a metterli in salvo su vari server, che poi vengono anche stampati da qualche parte. Quindi per la conoscenza c'è sempre una fessura attraverso cosa salvarsi, se non altro per la tradizione orale, che alla fine ci potrebbe portare anche in posti o in situazioni concrete se avessimo la chiave di risolverlo. Ed infatti questo è un esercizio che anche Asimo fa, per esempio attraverso il fatto che della ricerca della terra, la ricerca della terra che è diventata una terra di mito. Cioè, la gente oramai, con una galassia popolata in migliaia e migliaia di stelle e di pianeti, la gente non ci crede più che sia possibile che l'umanità sia provenuta da un singolo pianeta. Nessuno ci crede più. E io mi posso anche immaginare questa situazione in cui nessuno se lo può più immaginare, e cercare la Terra attraverso dei miti, delle tradizioni orali, dei pochi riferimenti, sia una cosa difficile, affascinante. Quindi chissà che cosa troveremmo se veramente stessimo cercando le colonne di Ercole. E di Ercole, esatto. Per esempio. Comunque, volevo passare anche ad un'altra cosa che è molto interessante, e che è una cosa piuttosto scientifica, è che noi sappiamo che c'è uno scienziato che si chiama James Lovelock, e di cui abbiamo anche parlato. Abbiamo parlato di un suo libro di stampo ambientalista, in cui si trattava della... se mi ricordo bene, era quello della vendetta di Gaia, e lui utilizza questo concetto Gaia esattamente perché è stato lui il fondatore della teoria Gaia, cioè della Terra come un organismo vivente in cui tutto è connesso con tutto. Quindi James Lovelock è uno di quei scienziati che dice che non si può guardare nessun fenomeno nella sua isolazione. Per ogni fenomeno abbiamo bisogno di chimici, di fisici, di psicologi, cioè praticamente un po' di tutto, per riuscire a capire tutte le connessioni e tutte le conseguenze dei nostri interventi. Quindi è un modo, da un lato più complicato, di vedere la Terra, da un altro lato intuitivamente una cosa molto più giusta, perché noi cerchiamo di sottrarci, diciamo, dalla natura, ma non è vero che non ne siamo parte. E l'altra cosa, la Terra è un organismo vivente, che non è che noi, quando cerchiamo di ridurre il nostro impatto ambientale, cerchiamo di, fra virgolette, salvare la Terra. No, noi cerchiamo di salvare noi stessi, che ci siamo un po' ribellati contro questa Terra su cui noi stiamo vivendo, e nel momento in cui la Terra decide di ribellarsi contro di noi, sarà fatta. E tutto sarà fatto. Comunque, la cosa interessante è che Asimov, nella serie della Fondazione, riprende l'idea di Gaia. E secondo me una sera ha pensato: ma come sarebbe questa cosa in pratica? Se veramente lo mettessimo in pratica, la Terra come organismo unico vivente, come sarebbe? E si è creato questo pianeta, che si chiama Gaia, effettivamente, e dove tutto è connesso con tutto, e c'è anche una coscienza di questa connessione. Quindi le persone, gli umani che ci vivono, hanno sviluppato le capacità psicologiche, telepatiche, nominiamoli come vogliamo, e sono in connessione uno con l'altro e anche con la natura, i sassi, cioè praticamente tutto ciò che compone la terra. E ogni volta che una persona di questa comunità parla con qualcuno, dice: io sono Gaia, perché c'è un'identità che copre praticamente tutta la terra, e tutti sono coscienti allo stesso tempo di tutto ciò che sta succedendo, in modo sicuramente non facilmente descrivibile. Comunque è questo che si immagina Asimov, e questo l'ho trovato molto interessante, diciamo. Nel libro di Asimov è anche una delle realtà possibili dove c'è il meno possibilità, diciamo, dell'umanità di farsi male, se ho capito bene. È questo, non è che lui sta dicendo che ci sono tutti i dubbi che si esprimono attraverso uno dei personaggi che ha tanta paura del, per esempio, della perdita dell'individualità, ma allo stesso tempo anche la riconoscenza del fatto che l'individualità, specialmente se completamente staccata, diciamo, dalla comunità, quanto male riesce a fare in base a decisioni un po' che sono basate magari sull'ambizione, sul desiderio di potere, anche in piena buona fede, diciamo. E quindi Asimov vede questa realtà, questa possibilità, come quella che magari riesce a conservare di più comunque l'essenza umana, e di tramandarlo, diciamo, generazione in generazione. Ecco, il tempo vola nella compagnia di Asimov, però. Beh, devo dire, se mi permetti, abbiamo semplicemente fatto brevi cenni sull'universo. Brevi cenni, cioè io volevo discutere anche l'imprenza del mondo di Asimov, della fondazione, sulla crisi. Bene, prossima puntata. Next time. La prossima Oddio, puntata. Ma come facciamo? Brevi, io non sono intervenuto sulla mentalica, non sono intervenuto sul rapporto con la mentalica, che dice Capossela, insomma, è qua. La Dobbiamo musica continuare. Come emozioni, la mentalica come laboratorio di azione sulle emozioni anziché sull'intelligenza. Insomma, vabbè. Allora, la mentalica, Vince Capossela, alla prossima puntata, insieme a Ivano. Insieme alla crisi e Asimov e la fondazione. Molto bene. Ma mi sembra estremamente interessante. Io saluto Daniel Mergia. Buonasera a tutti. Ovviamente i nostri Fiordaliso e Giorgetto. Vi. Eccolo qua, Georges Laurent. È la mitica Mary D. Sì. Non salutare l'intervistatrice di professione. Diventerà intervistatrice di professione, secondo perché me. Perché no? Potrebbe essere il mio prossimo lavoro. Non mi dispiacerebbe vedere intervistatrice di qua. Intervistare un po' di tutto. Ti farei intervistare Gaia. Lì diventa un po' più problematico. Insomma, se non c'è una sfida, sarà un'intervista corale. Sarà un'intervista corale. Magari bisogna dire. No, io sono Gaia, punto. Mi intervisto in quanto parte del tutto. Ringraziamo adesso i nostri ospiti, Vinicio Capossela e Fabio Giannotti. Noi vi auguriamo un'ottima settimana e ci ritroveremo martedì prossimo. Arrivederci. Ciao. Ciao.